Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. L'appuntamento con Economia in Europa si apre sul Portogallo, che ha rimesso in moto le preoccupazioni degli investitori europei. Poi parleremo del Regno Unito e del varo della sua manovra finanziaria con le misure per le imprese inglesi. Parleremo di tutela del risparmio e dell'Expo 2015. Partiamo dunque con i mercati. Oltre alla persistente tensione in Nord Africa e alle conseguenze del sisma che ha colpito il Giappone, sono tornati ad acuirsi i timori sul debito sovrano dei paesi dell'Eurozona. Le agenzie di rating hanno drasticamente abbassato il giudizio sul Portogallo e sulla Grecia. Proprio il Portogallo potrebbe necessitare di un piano di salvataggio europeo e della ristrutturazione del suo debito, dopo le dimissioni del premier Socrates a causa della bocciatura da parte del Parlamento del piano di austerità e tagli alla spesa pubblica, appunto piano messo a punto dal governo portoghese. Sentiamo su questo il commento dell'economista Paolo Savona. Il mercato non è convinto dei provvedimenti che l'Europa ha preso e quindi ritiene che il rischio di default, di insolvenza del debito pubblico di questi due paesi sia cresciuto, non si sia ridotto. Allora, in questo quadro, che direi una crisi possa sfiorare anche l'Italia, non è oggi probabile, ma è sempre possibile. Non è probabile perché la situazione generale, pur stagnando dal punto di vista della produzione e dell'occupazione, non sta peggiorando. Intanto a Bruxelles è tornato a riunirsi il Consiglio europeo dei capi di Stato e di Governo. All'ordine del giorno anche il rafforzamento del Fondo Salva Stati, la cui dotazione dovrebbe salire da 250 a 440 miliardi di euro e poi a 700 miliardi dal 2013. Sentiamo il commento di Daniel Gross, direttore dell'Istituto Center for European Policy Studies di Bruxelles. La situazione in Portogallo era prevedibile, è già scontata. È scontata dai mercati e anche dagli altri leader europei, che hanno visto chiaramente che Socrates non poteva sopravvivere a lungo. Per cui Portogallo o no si concentreranno su queste questioni a lungo termine. E un aumento per il Portogallo, un aumento dei fondi europei non è necessario perché per il Portogallo ci sono ancora abbastanza soldi. Il Portogallo piuttosto come la Grecia, il Portogallo è un paese che ha moltissimo debito estero, mentre l'Irlanda ne aveva poco e anche l'Italia ne aveva poco, per cui il Portogallo è veramente un caso classico per ogni aiuto piuttosto il Fondo Monetario Internazionale che un aiuto europeo, ma il rischio di contagio è molto reale perché le banche spagnole sono molto presenti, esposte in Portogallo. In Portogallo, e si sa che in Spagna il punto debole non sono i conti pubblici, ma il sistema bancario, che è talmente grande che se uno di queste banche avrà qualche difficoltà viene giù tutto il paese. Questo rischio secondo me è reale, ma penso che si può ancora sperare che non avvenga, ma più che una speranza non è. Infatti il Portogallo è un paese che ha un debito pubblico molto più basso di quello italiano, ma un debito privato sia delle famiglie che delle imprese che delle banche molto più alto. Ed è per questo che il Portogallo ha perso la fiducia dei mercati, non per il debito pubblico per sé che non è altissimo. Ma purtroppo in Italia pochi realizzano che questo discorso sul risparmio delle famiglie così forte in Italia è ancora un po' vero, ma ogni anno lo è un po' di meno. E se io prendo l'evoluzione negli ultimi 10 anni e la prospetto in avanti per altri 10 anni, l'Italia arriverebbe in una situazione non molto dissimile a quella del Portogallo. Nel Regno Unito il cancelliere dello scacchiere George Osborne ha presentato la manovra finanziaria 2011 alla Camera dei Comuni, intervento che punta a riformare l'economia della nazione e ad assicurare crescita e posti di lavoro. Sentiamo l'annuncio di Osborne. Today's budget is about reforming the nation's economy so that we have enduring growth and jobs in the future. La manovra punta a riformare l'economia del paese e assicurare crescita e posti di lavoro. Vogliamo fare il possibile per aiutare le famiglie contro il caro vita e il rialzo del costo del petrolio. Sappiamo bene quanto siano difficili oggi le condizioni economiche di molti. Ci siamo messi in cammino e dal soccorso siamo arrivati alla riforma, dalla riforma alla guarigione. E questo è stato possibile grazie anche alle difficili scelte che abbiamo intrapreso. Decisioni che hanno portato alla stabilizzazione economica. E senza quest'ultima non ci può essere una crescita stabile e sostenibile. E tantomeno non si possono creare nuovi posti di lavoro. Senza stabilità il governo deve tornare a rivolgersi ai cittadini e chiedere più tasse. Noi non dobbiamo fare questo oggi. Questa infatti non è una manovra che comporterà un aumento delle tasse. Si basa sui soldi, darà slancio alle imprese e supporterà l'export e gli investimenti. È un piano per creare, non per rimediare. Come si concretizzerà la manovra britannica? La Corporation Tax britannica, la tassa applicata alle aziende del Regno Unito, verrà tagliata di 2 punti percentuali per poi scendere all'1% ogni anno sino al termine della legislatura. Al termine della cura, la Gran Bretagna tasserà dunque le aziende al 23%. Sentiamo il commento di Leonardo Maisano, corrispondente da Londra del Sole 24 Ore. Questo è è stata in un certo senso la sorpresa del budget di Osborne, nel senso che lo ha puntato molto da un lato sul fronte degli aiuti alle famiglie, soprattutto sul taglio sulle accise, sul carburante. Ma l'aspetto principale, a mio avviso, sono appunto gli interventi per le imprese. Cioè questa decisione di raddoppiare quanto era previsto, cioè era già previsto un taglio dell'1% nella corporate tax, sarà un taglio del 2% subito e di un 1% all'anno nei prossimi anni per arrivare nel 2015 ad avere il 23% di corporate tax, che sarebbe la più bassa del G7. Piccola domanda, dove li trova i soldi? Perché il Gran Bretagna ha salvato le sue imprese bancarie, sta viaggiando con un deficit molto alto, è vero che non è dentro l'euro, quindi non ha il patto di Maastricht, però insomma da qualche parte dovrà tagliare o aumentare le entrate? Ha tagliato il tagliabile, cioè, i dipendenti, sì, hai ragione. In questi mesi è stato sangue, sudore e lacrime, nel senso che il piano di taglio della spesa pubblica non ha precedenti neanche con gli anni della Thatcher, cioè bisogna ritornare proprio ai primi anni 70 per trovare misure di queste dimensioni, peraltro non ancora entrate interamente in vigore, per cui il morso di questi provvedimenti si deve ancora sentire e si sentirà nei prossimi mesi. Le conseguenze politiche sono tutte da valutare da questo punto di vista. La grande scommessa è rilanciare, con grandi aiuti alle imprese, per cui se da un lato i tagli della spesa pubblica comporteranno tagli di posti di lavoro nel settore pubblico, tu dovresti poi controbilanciarli con occupazione nel settore privato. A 3 anni esatti dalla vittoria sulla concorrente turca Smirne, la situazione dell'Expo milanese previsto per il 2015 rimane problematica. I lavori non sono ancora partiti e resta tuttora da sciogliere il nodo dei terreni su cui organizzare la manifestazione. Intanto è stata rimessa in discussione anche l'impostazione tematica della kermesse, quella dell'orto botanico planetario. Il prossimo 19 aprile a Parigi è previsto un incontro con il Bureau International per verificare la situazione dei lavori. Sentiamo il commento di Giuseppe Sala, amministratore delegato di Expo 2015 SPA. Lei è vero che vuole ridurre la quota ha fatto arrabbiare Boeri, ha fatto arrabbiare Carlin Petrini, insomma tutto il mondo che ruota attorno al cosiddetto concetto dei verdi. Si è un po' inalberato, vuole trasformare l'Expo in meno orto, più tecnologia, macchine in movimento terra, no? Ma guardi, sa, come deve essere l'Expo alla fine non lo dirò nemmeno io, non lo dirà Boeri, non lo dirà Petrini, lo diranno i partecipanti e gli espositori, lo diranno e lo stanno dicendo i paesi, lo stanno dicendo le aziende. Il problema non è fare l'orticello di fianco al padiglione della Francia e far sì che la Francia porti il suo sapere rispetto all'alimentazione. Questo è quello che mi sta a cuore. Poi la tecnologia è uno strumento, ma il problema fondamentale è pensare che nel 1930 eravamo 2 miliardi di persone sulla Terra. Oggi siamo 6 miliardi e nel 2050 saremo probabilmente 9 miliardi. Non è con l'orticello che si risolve il tema. E questo lo dico nel grande rispetto del lavoro che Petrini ha fatto e nella grande stima dell'uomo. Ma lei lo vuole ridurre questo orto o no? Perché poi non ho capito. No, io voglio confermare assolutamente le serre e gli spazi dedicati al bioclima. In sintesi, io sto dicendo che non voglio e non posso, perché è questo che mi dicono i paesi, imporre ad ogni paese di farsi l'orto di fianco al padiglione. Questo è molto, molto sinteticamente il mio pensiero. Penso che scientificamente e culturalmente non ha senso immaginare la coltivazione di un banano nella periferia di Milano, per essere preciso e diretto. Nei giorni scorsi in Italia una notizia ha richiamato l'attenzione di migliaia di risparmiatori rimasti coinvolti in crack finanziari. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Consob, l'autorità di controllo del mercato finanziario italiano, deve risarcire un gruppo di risparmiatori che perse tutto quanto investito su sollecitazione della SFA, Società Servizi Finanziari Amministrativi, una società di intermediazione non autorizzata alla raccolta di risparmio. Un crack che risale agli inizi degli anni 90, che coinvolse 3.000 persone, che videro andare in fumo 120 miliardi delle vecchie lire. Ma è mai accaduto in altri ordinamenti europei che un'autorità di vigilanza sia stata obbligata a risarcire dei risparmiatori? Lo abbiamo chiesto a Daniele Santosuosso, docente di diritto commerciale all'Università La Sapienza di Roma. Dunque, sul piano civilistico le altre autorità garantiscono zone di maggiore immunità rispetto all'Italia, che con la sentenza di oggi conferma di essere all'avanguardia. In particolare, per esempio, in Gran Bretagna c'è stato un famoso caso contro la Banca d'Inghilterra, ovvero messi i controlli di vigilanza relativi alla Bank of Credit and Commerce International, e ci fu la condanna da parte dei giudici di merito, però poi la House of Lords ha ribadito che occorre il dolo e quindi non basta la colpa, come in Germania, dove in realtà è affermata proprio la responsabilità dell'autorità di vigilanza, salvo che non si violino intenzionalmente doveri di diligenza specifici nei confronti di determinati individui. Quindi, a parte casi molto eccezionali, un caso come il nostro, a quanto mi risulta, non si è verificato. Diciamo che vi sono dei profili di maggiore, come si dice, accountability, cioè responsabilità politica e morale delle autorità di vigilanza, piuttosto che invece casi di responsabilità civile ai sensi dell'articolo 2043, quindi extracontrattuale, come lo abbiamo avuto noi. Voglio anche sottolineare che, sempre con riguardo al discorso degli emittenti, i poteri della Consob ispettivi e informativi sono cresciuti nel tempo e questo può dar luogo a maggiore facilità di omissioni. Si pensi, ripeto ancora una volta, a manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate, quello che era l'insider trading di oggi. Se la Consob omette di compiere tutti gli atti necessari all'accertamento di queste violazioni, di richiedere notizie, registrazioni telefoniche, audizioni personali, eccetera, e questi casi sono sempre più frequenti a livello penalistico, a livello civilistico l'aver perso per esempio soldi per un investimento derivante, se questa perdita deriva da questi reati, può a mio avviso fondare azioni di responsabilità civile vittoriose. E con questo per Economia in Europa è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.